GR24, il sole 24 ore. Voto in America, Obama trionfa, la Camera resta in mano repubblicana, referendum, marijuana legalizzata in due stati. Il governo francese dà il via libera alle adozioni gay, matrimoni equiparati a quelli eterosessuali. Tra un'ora stop alle iscrizioni per il concorsone della scuola in 300.000 per 11.000 posti. Motociclismo, Biaggi si ritira dalle corse, calcio, Champions League, dopo il pari del Milan stasera tocca alla Juve. Una buona giornata da Simone Spezia, dalla redazione di GR24. In apertura, naturalmente, il voto negli Stati Uniti, che ha fatto segnare un trionfo per Barack Obama. Ci racconta tutto in diretta Sergio Nava. We have picked ourselves up. We have fought our way back. And we know in our hearts that for the United States of America, the best is yet to come. E quella che state ascoltando è la lunghissima ovazione che i sostenitori di Barack Obama hanno tributato meno di 6 ore fa al presidente rieletto a Chicago. Mi sono congratulato con Romney, lavoreremo insieme per portare avanti il paese, ha affermato Obama. Torno alla Casa Bianca più determinato, ha sottolineato, prima di aggiungere la nostra economia si sta riprendendo. Obama ha promesso che lavorerà per trovare quei compromessi necessari per portare avanti gli Stati Uniti. Lavorerò con i leader di entrambi gli schieramenti per affrontare le sfide che possiamo risolvere solo insieme. Ma quella appena trascorsa è stata ovviamente anche la notte del grande sconfitto. I have just called President Obama to congratulate him on his Mitt Romney, che state ascoltando, ha ammesso di aver perso in un discorso molto breve, pensate, solo 5 minuti, in cui si è congratulato con Barack Obama e gli ha fatto auguri di buon lavoro affinché possa guidare la nazione con successo. Abbiamo parlato dei grandi elettori, che sono poi quelli determinanti per eleggere il presidente, ma Obama, a dispetto delle previsioni iniziali, ha vinto anche nel voto popolare. Obama ha ottenuto il 50,2%, mancano ancora pochi voti da scrutinare, ma siamo quasi alla totalità, 50,2% contro il 48,2% di Romney, quasi 59 i milioni di voti per Obama contro i 56,5 di Mitt Romney. Obama si è aggiudicato praticamente tutti i principali stati in bilico: Ohio, Virginia, Colorado, Nevada, Iowa, New Hampshire, Wisconsin e New Mexico. Romney ha ottenuto solo in North Carolina, incerta ma ininfluente la Florida, dove Obama ormai appare in vantaggio, quindi anche i 29 grandi elettori della Florida dovrebbero andare a Barack Obama. Si è votato anche per Camera e Senato, anche per il Congresso dunque, netta vittoria repubblicana alla Camera, 231 i seggi repubblicani, 187 i seggi democratici, mentre al Senato hanno prevalso i democratici, che hanno quindi confermato la propria maggioranza, 51 seggi contro i 45 seggi repubblicani e 2 seggi degli indipendenti. Per Obama si profilano almeno altri 2 anni di difficile coabitazione con un Congresso spaccato, quindi far passare le leggi e ricordiamoci anche da trovare un accordo per evitare il fiscal cliff non sarà semplicissimo per Barack Obama. Tra poco ascolterete le reazioni mondiali, o meglio le reazioni dall'Italia e dall'Europa, prima però quelle dal mondo. Congratulazioni a Obama dal premier israeliano Shimon Peres, dall'ANP palestinese, dalla Cina e dal re saudita Abdallah. Putin, il presidente russo Vladimir Putin, ha inviato a Obama un telegramma di congratulazioni. In generale al Cremlino hanno preso in modo molto positivo la notizia della vittoria, ha spiegato freddamente un portavoce, e il presidente egiziano Morsi ha inviato un messaggio di congratulazione a Obama per la rielezione. Morsi auspica un rafforzamento delle relazioni di amicizia. Un'occhiata ora anche ai titoli online dei principali giornali americani. New York Times titola: la notte di Obama tiene il vantaggio elettorale, il voto popolare è risicato. Washington Post: un secondo mandato. CNN: vittoria per Obama. Chicago Tribune: il discorso della vittoria, il meglio deve ancora venire. Infine New York Post: Barack, altri 4, la storica vittoria di Obama. Non si votava solo per il presidente, non si votava solo per il congresso, si votava negli Stati Uniti anche per i referendum, e sentiamo al proposito il servizio. It doesn't matter whether you're black or white or Hispanic or Asian or young or old or rich or poor, able, disabled, gay or straight, you can make it here in America. Un'America diversa, più responsabile, lo dice Barack Obama nel discorso in cui celebra la sua rielezione alla Casa Bianca. Un'America che conferma al secondo mandato un democratico afroamericano è un'America multietnica, giovane, che scalza i conservatori e consegna al paese dei record. Il primo è quello delle donne in Senato, da oggi 18 su 100 senatori americani. Platealmente sconfitti i due candidati repubblicani al Senato, Todd Akin e Richard Murdoch, che in campagna elettorale avevano attaccato l'aborto anche in caso di stupro. Cambiamenti forti arrivano anche dal risultato dei referendum. Il Maryland e il Maine hanno approvato le nozze gay. Due stati, il Colorado e lo stato di Washington, hanno legalizzato l'uso della marijuana, il Massachusetts solo per scopi terapeutici. Cristina Carpinelli, Radio 24. Il Sole 24 Ore. Avete sentito le reazioni dal mondo? Dunque, veniamo ad un quadro dall'Europa. È con evidente soddisfazione che l'Europa ha salutato stamani la rielezione di Barack Obama alla Casa Bianca. Da più parti i comunicati dei governi nazionali e delle istituzioni europee sono stati particolarmente positivi. Dietro alle congratulazioni di maniera si nascondono da un lato il desiderio della continuità, ma anche una generale cautela con la quale l'establishment europeo ha accolto l'arrivo sulla scena politica di Mitt Romney, troppo religioso per le sensibilità laiche della società europea, tendenzialmente troppo liberista in politica economica e troppo isolazionista in politica estera. Ciò detto, i prossimi 4 anni non saranno probabilmente privi di divergenze tra Obama e la classe politica europea. La soluzione dello sconquasso debitorio, le relazioni commerciali, la gestione della crisi in Medio Oriente sono tutti potenziali argomenti di dissenso. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E veniamo alle reazioni italiane. In diretta Andrea Viali. Andrea. Sì, partiamo dal Presidente della Repubblica. Napolitano ha inviato ad Obama un messaggio di congratulazioni nel quale ha sottolineato che c'è bisogno della più stretta collaborazione fra Stati Uniti ed Europa perché possa avanzare nel mondo la causa della pace, della democrazia e dei diritti umani. Al presidente americano ha scritto anche Monti: guardo con piacere alla continuazione della cooperazione tra noi, fondata sulla particolare sintonia che si è venuta creando a livello personale e di governo, ha scritto il premier nel suo messaggio. Molti anche i commenti da parte delle forze politiche. Obama ha vinto contro il populismo e mettendo al centro del suo programma la solidarietà e il lavoro, sottolinea Bersani del PD, positivi giudizi anche dal PDL. Ora come lui coniughiamo rigore e difesa dei cittadini più deboli, suggerisce poi il centrista Casini. Auguri di buon lavoro ad Obama arrivano infine anche dal leghista Maroni, che all'inquilino della Casa Bianca chiede di aiutare l'Europa ad uscire dalla crisi e di sostenere sempre Israele e la causa della pace. Per ora è tutto. Grazie Andrea Viali, che tra l'altro citavi il tema dell'Europa e della crisi. Ebbene, stanno arrivando in questi minuti, vengono diffuse le previsioni dell'Unione Europea sulla situazione economica e sulle prospettive economiche. Si parla di una crescita che ritornerà per l'Eurozona solamente nel 2014. Di un più 1,4%. Per quanto riguarda l'Italia, si dice che il nostro paese raggiungerà una posizione vicina al pareggio strutturale, pareggio di bilancio nel 2013, ma a politiche invariate devierà già nel 2014. Dopo la profonda recessione del 2012, vedrà una ripresa tiepida nel 2013-2014. Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, dopo aver raggiunto il 10,6% quest'anno, si toccherà l'11,5% nel 2013 e l'11,8 nel 2014. Quadro piuttosto fosco comunque, invece probabilmente sull'America, che sono puntati i riflettori dei mercati. Deborah Rosciani, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, i futures sul mercato statunitense stanno manifestando un andamento leggermente improntato al rialzo per quello che riguarda l'apertura. Oggi, tra l'altro, come sempre, nonostante le elezioni americane continueranno ad arrivare dati macroeconomici, oggi aspettiamo i nuovi mutui per la settimana che si è conclusa il 2 novembre, gli stocks di energia, il credito al consumo. In tutto questo l'Europa sta cambiando direzione rispetto ad un'apertura più brillante, i principali indici si mantengono positivi mentre Milano sta virando in negativo. In questo momento sta perdendo lo 0,20% sul FTSE MIB. Parigi più 0,43, è arrivata a guadagnare un punto. Francoforte più 0,27, Londra più 0,31%. Quindi sulla notizia il mercato arretra. dopo che gli operatori erano stati invece piuttosto cauti anche negli ultimi giorni, proprio in attesa del voto presidenziale. A questo punto dobbiamo monitorare appunto l'andamento e l'apertura di Wall Street. L'euro sul dollaro è a 1,28,03, quindi abbiamo un andamento in questo momento di ripresa del biglietto verde sull'euro, e stamattina abbiamo avuto buone notizie sempre per quello che riguarda l'Europa sul fronte spread, che è in discesa. Nel differenziale tra Italia e Germania sul decennale siamo arrivati intorno ai 344 punti base. Ecco, per il momento, Simone, con la borsa è tutto. E grazie Deborah Rosciani. Ovviamente l'attenzione è puntata non solo sugli Stati Uniti ma anche sulla Grecia. Oggi secondo giorno consecutivo di sciopero generale, mentre il Parlamento è chiamato ad un voto decisivo sulle misure di risanamento supplementari che vengono chieste al Paese per ricevere la nuova tranche di aiuti. Mentre la Grecia per il secondo giorno consecutivo resta paralizzata dallo sciopero di 48 ore indetto dai sindacati, con migliaia di persone di nuovo in piazza, in Parlamento è in corso il dibattito cruciale sulle nuove misure di austerità che i deputati voteranno questa sera, presumibilmente intorno a mezzanotte. Un pacchetto considerato indispensabile dai creditori internazionali per concedere alla Grecia una nuova tranche di aiuti da 31 miliardi e mezzo. L'approvazione delle nuove misure è inevitabile se vogliamo evitare il fallimento, ha detto davanti alla Commissione Finanze il ministro Yannis Sturnaras. Ci troviamo nel momento più critico e dobbiamo prendere la decisione giusta. Contro le misure di risanamento supplementari che provocano dissidi anche all'interno dei tre partiti della coalizione di governo restano fortissime le resistenze dell'opposizione, della sinistra radicale di Siriza, che parla di un genocidio sociale imposto da quella che definisce la dittatura del memorandum firmato con la Troica. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla cronaca. Emergono nuovi particolari dopo l'omicidio nella notte ad Umberti. L'uomo che ha ucciso i due figli di origini marocchine potrebbe aver agito perché la moglie non voleva più portare il velo. Lei lo aveva lasciato di recente, ma le liti continuavano. Sono stati fermati da Guardia di Finanza e Polizia di Reggio Calabria 8 membri dell'equipaggio del peschereccio turco, arrivato lunedì al porto di Reggio con 162 immigrati clandestini. Sono accusati di aver portato i migranti illegalmente dalla Turchia all'Italia, esponendoli a pericolo di vita e un trattamento disumano. Il comandante della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, il tenente colonnello Mario Intelisano, al microfono di Adriana Fracchia. Questa moto peschereccio con a bordo 170 persone viaggiava sul Mediterraneo in condizioni disumane. Arrivate al porto di Reggio Calabria, i militari del gruppo della Guardia di Finanza hanno praticamente individuato i soggetti responsabili dell'equipaggio che avevano procurato praticamente l'introduzione illegale sul territorio italiano di questi immigrati clandestini. Fatte le indagini a terra, perché è molto difficile andare a individuare all'interno di un gran numero di persone chiaramente i soggetti responsabili dei reati. Individuati i soggetti, fatte le opportune indagini, si è riuscito quindi a far sì che l'autorità giudiziaria emettesse 8 provvedimenti di fermo restrittivi nei confronti di 8 soggetti di varie nazionalità, in particolar modo afghani e iraniani, e questi sono stati tratti in stato di fermo e portati proprio stanotte in carcere. Mancano circa tre quarti d'ora, il concorsone per aspiranti insegnanti a quel punto alle 14 fermerà le iscrizioni. Al momento si parla di 280.300.000 domande arrivate, molte inviate negli ultimi giorni, mandando in tilt il sistema informatico del Ministero. Daniela Girgenti, direttore della rivista tecnica della scuola, al microfono di Maria Piera Ceci. C'è stato un caos tremendo, perché non si riusciva a entrare né nella pagina del Ministero, nell'home page, né anche nella parte di istanze online dove bisognava compilare la domanda. Quindi noi abbiamo avuto moltissime telefonate, di mail, di lettori, da lunedì e martedì, che sono i giorni appunto importanti, quindi la gente ha dovuto lavorare di notte. Una volta fatta la domanda e tutto quanto. Ora si apre il contenzioso adesso, purtroppo nella scuola ormai si va avanti per carte bollate, ricorsi. ragazzi, perché il personale di ruolo della scuola è stato escluso e quindi ci sono dei ricorsi, perché giustamente coloro che già insegnano da anni e volevano comunque partecipare per cambiare grado di scuola e non l'hanno potuto fare. Però il 23 novembre si saprà quando sarà la prova selettiva, quindi il ministro vuole andare avanti come un treno, non gli importa nulla dei ricorsi e vuole concludere al più presto questa procedura concorsuale. E adesso veniamo alle nozze gay in Francia. Arriva l'equiparazione con le nozze eterosessuali e la possibilità di adozioni. In diretta da Parigi, il corrispondente del Sole 24 Ore, Marco Moussanet. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, la decisione in realtà non è arrivata a sorpresa. No, assolutamente. Era una delle 60 proposte della campagna elettorale di Hollande e quindi era assolutamente ovvio che prima o poi ci sarebbe arrivati. Alcuni pensavano che forse il Presidente avrebbe preso un po' più di tempo prima di varare questo progetto di legge che andrà in Parlamento a gennaio, viste le divisioni che questo tema crea nel Paese. Ma evidentemente ha deciso comunque di procedere. La nuova legge prevede appunto un'equiparazione totale, cioè viene cambiato sostanzialmente l'articolo del codice civile sul matrimonio. Il nuovo articolo dice che il matrimonio è contratto tra due persone di sesso diverso o dello stesso sesso. Resta certo la grande opposizione, ma devo dire che sul matrimonio omosessuale in realtà secondo i sondaggi l'opinione pubblica è abbastanza favorevole, siamo intorno al 65%. Il tema vero di divisione riguarda appunto quello delle adozioni, su cui invece il paese è davvero spaccato in due, cioè la possibilità per le coppie omosessuali di adottare dei bambini. Vedremo che cosa succederà, ci sarà battaglia, quindi probabilmente grazie nel frattempo a Marco Moussanet. Noi ritorniamo all'Italia, innanzitutto con una notizia che arriva sul decreto legge sui costi della politica, perché governo e maggioranza hanno trovato finalmente l'intesa sul terremoto, sui soldi per il terremoto, sulla sospensione delle tasse. C'è la proroga della sospensione dei pagamenti dei tributi, IRPEF addizionali incluse, per i lavoratori e le imprese colpiti dal sisma dell'Emilia. Restano esclusi invece i contributi, la copertura arriverà con l'8 per mille. Ancora cronaca parlamentare: al Senato la legge sulla diffamazione, situazione piuttosto confusa con la relatrice che si è dimessa. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Un cammino non certo facile, quello del disegno di legge sulla diffamazione all'ombra poi del caso Sallusti. Si dimette la senatrice democratica Silvia Della Monica, relatrice del testo contrario ad una legge spiega che si sta formando in maniera caotica. Voterò contro l'articolo 1 anche se ci sarà il voto segreto, cioè incompatibile con il ruolo di relatrice. Subito dopo le sue dichiarazioni viene convocata la conferenza dei capigruppi e si sceglie di rimandare l'intero testo in commissione. Decisione poi votata dall'aula di Palazzo Madama. Per Anna Finocchiaro, sempre PD, il testo va asciugato delle molte aggiunte che ci sono state che impedirebbero ai democratici di votare l'articolo 1, un provvedimento, ricordiamo, discusso più volte, quasi record per l'emendamento che ridisciplina l'istituto dell'interdizione dalla professione giornalistica. È stato scritto addirittura 7 volte. Adesso l'intesa fra i gruppi è quella di cercare di asciugare il disegno di legge dalle norme più controverse e concentrarsi sulla questione principale, ossia l'eliminazione del carcere. Per il momento qui da Palazzo Madama è tutto. Simone, a te la linea. Grazie ad Elisabetta Fiorito. L'attenzione resta comunque concentrata anche sulla legge elettorale. Il punto di Stefano Folli. Dopo la frattura al Senato e le solite contumeglie sulla legge elettorale, la domanda è possibile trovare un punto di incontro, un compromesso fra il centrodestra allargato a Casini e il Partito Democratico di Bersani, che è molto irritato? Il quesito è poco stimolante per l'italiano medio, oberato da 1000 problemi quotidiani. Eppure dalla risposta dipende il nostro futuro politico nei prossimi anni. Ebbene, l'impressione è che il compromesso sia possibile con un po' di buon senso, magari assegnando al partito che ottiene la percentuale più alta un premio in seggi di circa il 10%, che è abbastanza per costituire il perno delle future alleanze, ma non così abbondante da imporre una sorta di dittatura della maggioranza, oltretutto sotto il ricatto delle fazioni più estremiste. Insomma, tutto dipende dalla volontà politica. I principi astratti oggi non servono più, serve invece un po' di sano pragmatismo per non imporre di nuovo agli italiani il vecchio porcellum. Sul fronte economico resta aperta la discussione sulla produttività. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Un'intesa non facile, quella tra mondo delle imprese e sindacati sulla produttività. Il confronto resta comunque aperto, con il governo che continua il suo pressing perché si riesca a chiudere il capitolo in questione. L'esecutivo punta a far inserire nell'accordo alcuni aspetti che reputa fondamentali da portare poi in un apposito decreto legge. A partire, ha spiegato il ministro del lavoro Fornero, dal depotenziamento degli automatismi contrattuali, compresa la rinuncia all'indicizzazione automatica dei salari all'aumento dei prezzi. Concetto su cui torna oggi il ministro per lo sviluppo economico. Amico Passera, sentiamo. Al tavolo della produttività c'è il tema del come legare all'effettiva produttività e non necessariamente soltanto all'andamento dell'economia nel suo insieme, in modo tale da premiare quei contratti di secondo livello che legano gli aumenti all'aumento della produttività. Sì al confronto ma no alle invasioni di campo, replicano dal sindacato. La trattativa, ribadisce Bonanni, CISL è tra le parti, altrimenti è una iniziativa autoritaria. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Siamo allo sport con Max Biaggi, che annuncia il ritiro, e il calcio che resta in primo piano. Carlo Genta, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti. A 41 anni dunque Max Biaggi scende dalla moto, lo ha annunciato ufficialmente. Esce da campione in carica perché anche quest'anno ha vinto il suo secondo mondiale in Superbike, a cui si aggiungono 4 titoli mondiali nella classe 250. È un'alba molto diversa oggi per me, niente sarà come prima, forza comunque, dice Biaggi con un velo di tristezza, insomma 41 anni con questo palmarès fa bene a scendere appunto dalla moto da campione, il grande rivale sempre battuto per la verità di Valentino Rossi. Quanto al calcio, siamo tra il Milan e la Juventus, il Milan che ha giocato ieri sera pareggiando 1-1 in casa con il Malaga, Compato che torna al gol ma non è un gran risultato in prospettiva qualificazione che è ancora tutta da, è in gioco sì ma è da conquistare, e la Juventus che gioca questa sera con l'obbligo di battere il Nordjylland che l'aveva fermata in casa sua 2 settimane fa, giocherà Matre in attacco per la Juventus, una partita da vincere a tutti i costi, Simone. Grazie Carlo Genta. In chiusura, noi parliamo di una persona che è scomparsa e alla quale questa redazione è rimasta legata. Se n'è andato stanotte Ezio Trussoni, caporedattore e poi vice direttore di Radio 24 e prima la guida della redazione di 24 Ore TV. Una sorta di intermezzo per quanto lungo nella sua vita professionale trascorsa quasi interamente alla RAI, dove da qualche anno era tornato come capo della redazione del TGR Lombardia. Cosa abbia fatto, quale fosse il suo curriculum, non è nemmeno troppo importante. È importante cosa ha rappresentato per molti di noi. Lavoratore impressionante, sempre attento, profondamente umano, disponibile al confronto, ma senza far sì che questo incidesse sulla velocità delle decisioni. Chi legge queste righe avrebbe mille ricordi, come molti di noi. La startup di 24 Ore TV, i momenti terribili eppure giornalisticamente così eccitanti dell'11 settembre, il ritrovarlo dopo qualche tempo chiusa l'esperienza televisiva di questo gruppo editoriale alla testa della redazione. Il confronto mai banale sui temi e sulle persone, la capacità di risolvere i problemi rapidamente e mai, mai la paura di sporcarsi le mani. Un ricordo piccolo piccolo si affaccia alla mente, una scena di dedizione al lavoro e di noncuranza per il ruolo che non riesce ad uscire dalla testa. Lui, il capo, vederlo con una scaletta mentre cambia la lampadina di un corridoio, accanto alla regia, che gli altri, quelli che lo dovevano fare, erano stati un po' troppo lenti. Grazie a Ezio Trussoni, uno dei migliori capi che potessero capitare, una persona per bene, che non solo di questi tempi è molto più di quanto non si creda. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, con in regia Paolo Corleoni, prossimo giornale radio alle 14. GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini.